Certo, e oltretutto stai parlando, seppur ovviamente da autodidatta, da uno shakespeariano convinto. Io tengo sempre i poemetti o alcuni suoi lavori costantemente già letti e riletti, però li tengo, continuo a tenerli sul comodino, non li metto nella libreria o biblioteca che io ho, li tengo sempre sul comodino. Per me lui è un tutti i tempi, del resto tutti i tempi è sulla sua vita diversi misteri, come tra tutti i personaggi che hanno cambiato la storia. E bella l'idea di riportarlo. Io infatti ho detto nella AMLT, che è già più, se vogliamo, British, però anche, anche la interpretazione pugliese non è male, sì, a me fa per ridere, è ovunque, hai capito, in questo sì, caso sì. Esatto. E già la denuncia c'è, cioè, del marcio in Danimarca è indimenticabile, per cui esattamente ok, è un lavoro di decostruzione, come l'hai già fatto intuire, che musicale, quindi, sì, e investe non solo il testo ma anche la stessa dimensione scenica e anche attoriale. Cosa troveremo e cosa non troveremo sul palcoscenico, Nicolò? Ma sicuramente noi abbiamo provato a dare una, come dire, una più che altro una sorta di composizione emotiva. Ecco, io come dico sempre, Amleto è il principe degli attori, no? Quindi sì, non tanto la sua storia, ma la sua carica, la sua energia, non potrà mai, come dici anche tu, passare di moda, no? Passare il tempo. Quindi io penso che questa è la mia prima regia. Io sono attore di 6 anni, ho cominciato di giovane, cioè in realtà era la prima elementare, però comunque sia, provando a fare l'accademia e fallendo, perché il percorso accademico non è stato consono alla mia personalità. Poi mi sono lanciato direttamente nel mestiere, no? E quindi semplicemente ho fatto l'attore di teatro per 28 anni, questa è la mia prima regia, e sinceramente provo, come dire, a dare una sorta di interpretazione proprio musicale del testo, smontandolo da quello che è la sua ordinamento testuale, narrativo proprio. E agli spettatori, che dire, io altra cosa che dico sempre, questo spettacolo qui è perfetto per chi conosce alla perfezione la storia di Amleto o per chi non la conosce per niente.